sempre un caloroso benvenuto a tutti quanti, alle signore e signori qui presenti. Come ogni anno la biblioteca cerca di creare delle occasioni di riflessione e anche di incuriosire il pubblico con delle nuove letture legate anche insieme al calendario così degli anniversari. Abbiamo iniziato in gennaio con la giornata della memoria e adesso ci troviamo qui in febbraio con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario ufficiale per ricordare, appunto, scusate il gioco di parole, il giorno del ricordo. Abbiamo così accolto molto volentieri l'invito del professor Andrea Sarri del liceo Carducci di Bolzano quando ci ha proposto una conferenza con ospite come relatore il professor Todero, perché ci sembrava utile accompagnare la bibliografia che stiliamo, redigiamo ogni anno e le offerte di lettura e percorsi che vengono elaborati da questa biblioteca con una testimonianza di uno studioso, di un ricercatore dell'Istituto appunto di Trieste che si occupa da 50 anni di questo istituto di ricerca, anche forse qualche anno in più, e che ha saputo anche collegare i fili della storia locale con un panorama molto più ampio a livello non solo nazionale ma anche europeo, dal quale non possiamo esimerci, ecco, sempre nelle nostre indagini e nelle nostre analisi. Quindi io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, il professor Todero, il professor Andrea Sarri e tutti quanti voi che avete voluto partecipare a questa serata organizzata dalla biblioteca. Vi invito così a seguire le nostre iniziative e eventualmente ad iscrivervi alla biblioteca compilando semplicemente un modulo per tenervi in contatto con noi, che non ci perdiamo mai d'animo nonostante la piccola sede così un po' sacrificata. È un mantra che io ripeterò sempre finché non ci sarà il polo bibliotecario, e perché vogliamo così trasformare questa piccola struttura in un ente vivo partecipe, dove anche il nostro lavoro ha un senso, un significato di servizio al pubblico, dove ogni giorno può venire qualcuno, trovare una risposta a quello che chiede, portarsi a casa un libro oppure un'informazione, un qualcosa di utile che possa veramente cambiare anche di poco però la sua quotidianità. Grazie. Lo passo, teniamo che fisso allora. Poi vediamo. Bene, allora un saluto anche da parte mia e da parte della scuola che ha del Carducci, sono liceo di linguistica classico, che ha collaborato con la biblioteca per organizzare questo incontro. Ci sono anche ex studenti, no? Ci sono colleghi, insomma. E un saluto anche da parte di Storia Regione, insomma, qui c'è Carlo Romeo, insomma, che è noto al pubblico della biblioteca e per iniziative che abbiamo già organizzato in altre occasioni. E io ho avuto la fortuna questa mattina di presentare agli studenti delle quinte della nostra scuola Fabio Todero, triestino, insegnante anche lui, da alcuni anni distaccato presso l'Istituto di Ricerca sulla Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, a Trieste, e esperto di Prima Guerra Mondiale, l'evento che ha scatenato poi tutto, non solo nella Venezia Giulia, ma nell'intera Europa. E tra le sue pubblicazioni cito volentieri una pubblicata da Mursia del 99, Pagine della Grande Guerra, scrittori in grigio verde, oppure anche un lavoro del 97 pubblicato a Trieste sulle figure appunto di Carlo e Gianni Stuparic, e più recentemente anche i lavori pubblicati anche in miscellani, in volumi collettanei sul confine orientale, sulla Venezia Giulia, per esempio l'ultimo del 2013, Trieste 1914, no? L'anno appunto dell'inizio, no? della Grande Guerra, di cui di cui quest'anno appunto ricorrono i 100 anni. E Fabio Todero lavora con un gruppo di ricercatori triestini, con Roberto Spazzali, con Raul Pupo, sul confine orientale, che è stato un po' il laboratorio tragico della contemporaneità, no? La dissoluzione dell'impero austro-ungarico, la morte di massa, la mobilitazione delle masse durante il conflitto e dopo il conflitto, i totalitarismi, il sistema concentrazionario, la risiera di San Sabba, le persecuzioni razziali, le persecuzioni religiose, le uccisioni, le deportazioni, i cosiddetti infoibamenti, il confine della guerra fredda. Fabio Todero oggi con gli studenti ha avuto modo di fare un percorso duplice, appunto, in cui ha cercato appunto con efficace sintesi di riprodurre agli studenti questi scenari, e ha proposto una chiave di lettura storiografica sul tema appunto delle foibe istriane e foibe giuliane, poi ce ne parlerà tra pochissimo. La chiave di lettura della storiografia forse più attenta, no, a superare anche i miti o i falsi miti che intorno a questa, come ad altre vicende, sono nati. La chiave di lettura è epurazione preventiva, e poi penso che Fabio appunto avrà modo appunto di parlarcene, quindi la vicenda delle foibe come vicenda di epurazione preventiva. Fabio, grazie allora ancora e a te la parola. Allora, buonasera, bentrovati a tutti, grazie alla direttrice della biblioteca, mi viene da dire parvas ed apta mihi, insomma l'importante è il cuore che anima i luoghi, se questi sono piccoli poi pazienza. Grazie, si sente? Ok, grazie al professor Sarri per questo invito. Io sono sempre molto contento, una parte emozionato quando vengo chiamato a parlare di queste tematiche, per la semplice ragione che io sono triestino e la mia città negli anni appunto di cui parleremo insieme questa sera è un luogo che ha sofferto moltissimo e che è stato un po' un epicentro di quel terremoto di cambiamenti che ha caratterizzato la storia della regione Giulia, appunto dagli esiti della prima guerra mondiale fino al lungo secondo dopoguerra giuliano, un dopoguerra interminabile che si è protratto tra l'altro ben oltre la firma del memorandum di Londra del 1954, no? Con gli ultimi arrivi del grande esodo dalla zona B e così via dicendo. Insomma, quindi sono vicende molto travagliate, di cui poi c'è, come potete immaginare, tutta una serie di memorie familiari, ma anche di memorie mie personali. Mi viene da dire un po' purtroppo, perché significa che ho una certa età, però ricordo benissimo alle scuole elementari, vi parlo dei primi anni 60, ahimè, quando si usciva da scuola scendendo le scale di un edificio asburgico, però la scuola era la scuola Fabio Filzi di Trieste, e sentivo nell'atrio un odore che mi è rimasto inconfondibilmente presente, che era l'odore della cera dei pavimenti, avevamo i pavimenti in legno, misto a un odore di una qualche minestra, e vicino in pian terreno c'era un refettorio, però abbastanza misterioso per me bambino, devo dire, ma soprattutto era molto misterioso il fatto che lì ci fossero dei bambini che invece di uscire da scuola ci restavano a mangiare. E io chiedevo alla maestra: ma chi sono questi bambini così con ingenuità che si ha a quell'età? E la maestra mi rispondeva: ah, sono i bambini poveri. Pensavo, accidenti, e ne avevo anche qualcuno in classe. Parecchi anni dopo ho scoperto che questi, tra virgolette, bambini poveri in realtà erano i figli degli esuli che erano stati provvisoriamente accantonati nella caserma di San Giovanni, che oggi ospita una scuola di polizia, ma la cui storia, solo la storia di questa caserma, è veramente sintesi della storia delle vicende terribili della prima metà del Novecento triestino. Oppure al liceo, il mio più caro amico, in prima, seconda, liceo aveva una sua particolare eleganza e anche molta dignità nel vestire, un po' originale anche, però ricordo che gli abiti erano sempre un po' sdrucciti, avevano qualche bottone in meno, e poi mi diceva: ma sai, io le medie le ho fatte in seminario. Dico: ma strano, perché questo mio amico non mi sembra tanto un tipo da andare a fare il sacerdote, perché aveva molto successo con le ragazze, con mia invidia. E ho scoperto anche questo parlandoci con gli anni, con l'intimità cresciuta, che lui era cresciuto ad Auresina in un campo profughi. A dire come sono vicende vicinissime, oltre che geograficamente vicine, penetrate nella storia della città, che come sapete ha accolto appunto moltissimi esuli, soprattutto della seconda ondata. Ma insomma, ho fatto una premessa anche troppo lunga, perché condensare in, diciamo, 50 minuti o il tempo che abbiamo a disposizione la storia di questo territorio è estremamente problematico. Ci tentiamo mostrando una serie di immagini che fotografano dei momenti di questa storia difficile. Ricordo appunto che la stessa legge istitutiva del giorno del ricordo giustamente ci richiama alle complesse vicende del confine orientale, e sono vicende veramente complesse, a partire dal fatto che, come ricordavo poco fa, è una terra in cui in un brevissimo volgere di tempo, 35 anni più o meno, diciamo così, si modificano continuamente i confini e si succedono amministrazioni di tipo diverso. Da noi si nasce cittadini asburgici, si diventa sudditi del Regno d'Italia, ma a noi poco dopo, da sudditi del Regno d'Italia, si diventa sudditi sì di un Regno d'Italia, però all'interno di una dittatura, che è la dittatura fascista. Questo ci richiama anche alle cose che diceva il professor Sari nella presentazione, il succedersi di una serie di sistemi totalitari. Poi tra il 43 e il 45 arrivano i tedeschi, che ambiscono in qualche modo, prefigurano il passaggio di quelle terre al Reich millenario. Per fortuna questo non è successo, ma come ben sapete le cose non finiscono qui, perché poi Trieste, Gorizia, primo maggio, e non soltanto naturalmente, arrivano gli jugoslavi e c'è l'occupazione jugoslava, e nei 40 giorni famigerati dell'occupazione della città da parte jugoslava già si prefigura l'annessione di quelle terre, che è la chiave, no, di queste vicende. Poi si diventa cittadini di questo strano territorio libero di Trieste, nei confronti dei quali oggi c'è un movimento, ai noi, di nostalgici, che Dio ce ne liberi e scampi. In realtà uno staterello nato, o meglio, formato sotto l'egida dell'ONU, che non ha mai un suo governatore, non viene mai nominato perché non conveniva a nessuno. Perfino Umberto Sabba, il nostro grande poeta triestino, in un testo, in realtà sul filo di ironia, si candida a fare il governatore di Trieste, quindi il governatore del territorio libero. E poi dopo il 1954, con il memorandum di Londra, o di qua o di là, quindi la ex zona A nuovamente cittadino italiano, e peraltro di una Italia nuova, nata su basi democratiche della nostra Repubblica, oppure cittadino della Repubblica Federativa di Jugoslavia, ed è un'altra storia evidentemente. Quindi nella vita di una persona ne succedono di cose, e questo vale anche per le nostre terre, no? Qui risaliamo rapidamente indietro nel tempo per dire che appunto si formò questa provincia austriaca del litorale, e questi termini poi drammaticamente ritorneranno negli anni dell'occupazione nazista, una provincia che comprendeva appunto la principesca contea di Gradisca e di Gorizia, la città immediata di Trieste, immediata in quanto godeva di alcuni privilegi di carattere amministrativo ed era comunque il centro più importante, il centro d'attrazione anche di tutto il litorale, il Margraviato d'Istria. Il fatto è che poi un lembo di terra così relativamente limitato, insomma, vicino c'è la città di Fiume. Fiume ha una storia straordinaria e bellissima, che tra l'altro è anche un'altra storia, no? In quanto corpus separatum, legato alla corona ungherese, con anche lì non soltanto una componente croata della popolazione, oltre naturalmente quella italiana, ma con una componente magiara, ed è una storia veramente molto affascinante e anche drammatica, come sappiamo, di quella città che sarà suo malgrado protagonista nel primo dopoguerra, no? Con l'occupazione danunziana appunto di Fiume. E questa è una carta etnica, nome che suona abbastanza sinistro in qualche modo alle nostre orecchie, ma che certamente tale non risuonava nelle orecchie di questo solerte funzionario e nobiluomo austriaco, Karl von Zörnig, che realizzò una carta etnica. In queste terre ne sono state realizzate tantissime poi, soprattutto all'altezza dei vari momenti delle trattative di pace, quando si trattava di definire i nuovi confini nazionali di stati nuovi come il Regno dei Serbi, Croati, Sloveni, il Regno d'Italia, che invece annetteva queste terre, no? Le cosiddette terre irredente. E queste erano carte costruite un po' ad arte, no? Per tirare la lenzuola, le lenzuola da una parte o dall'altra. Ci sono più sloveni e croati? No, ci sono più italiani, no? Era un po' così. In questa carta semplicemente Zörnig, un po' maldestramente, oggettivamente, che è parte di una grande carta etnica dell'impero che probabilmente conoscete, cerca di restituire quella che era la composizione nazionale e la distribuzione sul territorio delle varie componenti nazionali della provincia del litorale. In realtà dove sta lo sbaglio qua? Questo è interessante, no? Praticamente il fatto che i territori siano fittamente colorati con l'uno o con l'altro colore, che cosa fa sospettare? Fa sospettare che quei territori fossero così fittamente e densamente abitati dall'una o dall'altra componente nazionale, il che evidentemente non era. Se pensiamo all'Istria e soprattutto all'Istria interna, alla sua morfologia, al fatto che ci fossero all'epoca cattivi collegamenti, come ricorre nelle memorie di tanti viaggiatori o funzionari imperiali lì inviati, che ci fossero dei centri un pochino più grandi intorno dei quali stavano le case dei braccianti e così via dicendo, e soprattutto che si trattava di territori misti dal punto di vista della composizione nazionale, proprio quell'ibridismo linguistico di cui ci hanno parlato alcuni storici come Carlo Schiffre, ma che trapela e trasuda dalle pagine di un grandissimo scrittore istriano come Fulvio Tomizza, no? In cui la definizione dell'identità è veramente qualcosa di aleatorio e di problematico, ed è comunque, come ricordavo anche questa mattina, forse per i ragazzi è un tema un po' difficile, ma insomma è un fatto d'elezione, è un fatto d'elezione. Si è ad esempio italiani per scelta, perché significava ad esempio poter salire di un qualche gradino nella scala sociale, o comunque la nazionalità dipendeva da tutta una serie di fattori di carattere sociale, di promozione sociale appunto, di accesso a determinati mestieri, a determinate funzioni all'interno così della realtà sociale del territorio, per matrimonio e così via dicendo. La nazionalità non era, come nelle teorie etnografiche tedesche, ma anche proprie dello jugoslavismo, un fatto di terra e di sangue, ma era un fatto di scelta, appunto. E già su questo si capisce che non ci si intende, no, evidentemente, tra queste comunità sui termini. Facciamo un piccolo salto in avanti del tempo per dire appunto come già il primo, veramente vado avanti un po' a flash, no? Spero ci possa aiutare a capire un po' meglio questa difficile e problematica realtà. Siamo alla fine della prima guerra mondiale, che è un bel salto, ma lo lasciamo magari per un'altra volta questo tema, no? Ma la prima guerra mondiale trasforma evidentemente la realtà di queste terre, però ci vogliono 2 anni. Il trattato di Rapallo viene firmato 2 anni dopo la fine delle operazioni militari, 2 anni e qualche settimana, e all'interno di questo biennio in questi territori ne succedono, come noto, di tutti i colori: l'occupazione fiumana di D'Annunzio, ma non soltanto, in quello stesso periodo si prefigurano misteriose manovre di alcuni esponenti, alti esponenti dell'esercito. Si parla di golpe, di marce su Roma ante litteram, ecco, poi c'è questa straordinaria avventura che è l'occupazione danunziana di Fiume, la nascita del fascismo e del fascismo di confine, che porterà tanti guai e tanti problemi all'interno di queste terre, e non soltanto, evidentemente, no? Però mi interessa soprattutto sottolineare questo lungo dopoguerra, ma gettando lo sguardo solo molto rapidamente anche al periodo del conflitto, credo sia interessante ricordare come la città di Pola già nel 1914 conosce un suo primo consistente esodo. Pola era una città piazzaforte militare, per cui per gli ordinamenti propri dell'impero asburgico, in caso di guerra all'interno delle piazzaforti militari poteva rimanere soltanto quella parte di popolazione utile appunto allo svolgimento di mansioni legate in qualche modo alla guerra, all'industria bellica e così via dicendo. Per cui la maggior parte della popolazione della città è costretta a conoscere un primo esodo. Poi in buona parte questa gente può rientrare alle proprie case, ma molti conoscono la prima realtà dell'internamento nelle famose baracche, nelle città di legno, insomma, no? Da Vagna e così via dicendo, insomma. Quindi già uno spostamento di popolazione, così come sarà un massiccio spostamento di popolazione all'interno della Venezia Giulia, in quella fascia del territorio direttamente interessata, questa volta sia alle operazioni militari, insomma, no? Il fronte del Carso e così via dicendo. Ricordavo che in quel biennio, con la nascita del fascismo, una delle immagini simbolo appunto della storia delle nostre terre è questa, no? È l'assalto al Narodni Dom di Trieste. Assalto che avviene tra l'altro il 13 luglio 1920, dopo che un giorno prima a Spalato si erano verificati dei gravi incidenti tra dei marinai italiani e dei manifestanti croati. Era stata sottratta una bandiera, due membri della Marina Militare Italiana vengono uccisi. E il giorno dopo le squadre d'azione, insomma, del primo fascismo triestino, capitanate da un tale Francesco Giunta, che veniva da Firenze, organizzano questa manifestazione che porta all'incendio di che cosa? Di un edificio che si trovava nel pieno centro della città di Trieste e che costituiva per la minoranza slovena della città un simbolo orgoglioso di una presenza di quella comunità nazionale che non era più limitata alla cintura periferica, all'altipiano carsico e quindi anche a una posizione sociale subalterna, ma viceversa era il simbolo di una comunità nazionale che ormai aveva sviluppato le proprie realtà associative, culturali, economiche e così via dicendo. Quindi questo fuoco purificatore, no? Diciamo così, come ricorda anche Boris Pacher, lo si ricorda tanto, tanto spesso, ma qualche volta ci si dimentica, e lo dico per affetto personale, che Gianni Stuparic proprio sull'incendio del Narodni Dom di Trieste ha scritto delle pagine molto belle in Trieste nei miei ricordi, pagine che si concludono con un presagio di quell'incendio che prefigurava milioni di morti nel cuore dell'Europa, la fine di una civiltà in sostanza. Ecco dunque, facendo un salto in avanti nel tempo, ma prima di fare un salto in avanti nel tempo mi pare giusto fare un'avvertenza, come ho fatto con i ragazzi questa mattina. Attraversare le vicende e le stagioni della storia della Venezia Giulia può essere fatto in tante maniere, no? Una maniera molto gretta e grezza e poco produttiva sul piano della conoscenza effettiva delle cose potrebbe suggerire un percorso di questo tipo. Benissimo, adesso parliamo del dopoguerra, del comportamento delle autorità prima italiane e poi dell'Italia fascista nei confronti delle minoranze tra virgolette allogene o alloglotte, le malefatte del fascismo nei confronti appunto di sloveni e croati. Dopodiché parliamo delle violenze compiute dagli jugoslavi nel 43, nel 45 e negli anni successivi, così ci capiamo, no? È una reazione, una vendetta alle malefatte italiane. Ora, una lettura di questo tipo ogni tanto viene fatta, ma non credo sia molto produttiva, no? Sortisce un'immagine molto falsa di questa realtà, molto fuorviante e anche di comodo, no? Perché rientra in una logica giustificazionista in qualche modo. Dal mio punto di vista, Io sarei per porgere l'altra guancia, ma sappiamo quanto possa riuscire difficile. Andando purtroppo nel piano delle difficili relazioni umane e delle società umane e delle società che parlano in lingue diverse, questo diventa ancora più difficile, evidentemente. Ma non si tratta di un puro meccanismo di azione e di reazione. Dal mio punto di vista, l'analisi di queste vicende, la storia di queste vicende è interessante e importante proprio perché ci permette di inanellare, non per contrasto, ma di mettere una sopra l'altra. Sapete come in quel gioco c'è un piolo conficcato a terra e con degli anelli bisogna centrarli, insomma. Ecco, una sull'altra, costruire un percorso che ci faccia capire come, appunto, in quel breve volgere di tempo, queste terre sono attraversate da ondate di violenza che si manifesta sotto diversa specie, che colpiscono fondamentalmente poi, come al solito, la popolazione di quelle terre, no? È un po', forse, se volete, un'immagine manzoniana, no? Quando Manzoni diceva la storia si occupa di certe cose. Io sono un romanziere e voglio parlare di quelle moltitudini di uomini, dice, che passa sulla terra senza lasciare traccia. Ecco, oggi per fortuna si parla di esuli, si parla di esodo, si parla di vittime e non si parla soltanto di vincitori oppure di aguzzini e così via dicendo. No? La storia sociale ci ha molto aiutato in questo senso e anche la memoria, naturalmente. Quindi non è un mettere per contrasto le cose su due piatti di una bilancia e dire ecco, hai visto? Guarda quante ne hanno combinate e poi si raccoglie quello che si è seminato. No, non è questo. È semplicemente far capire come, e lo ricordava bene Andrea all'inizio, in queste terre, in quei pochi decenni, si succedono il fascismo, il nazionalsocialismo e il comunismo declinato alla Jugoslava, con forti connotazioni nazionaliste. In buona sostanza, tutti gli ismi, i totalitarismi del XX secolo, in un arco cronologico piuttosto breve e in un territorio che certamente non è grandissimo, si succedono provocando lacerazioni, dolore in tutte le comunità. Anche se alla fine, e lo sappiamo bene, il conto di queste violenze, di questi problemi, sarà l'italianità adriatica a pagarlo, no? Perché se l'operazione nazionalizzatrice intrapresa dal fascismo a suon di decreti legge non riesce a raggiungere l'obiettivo prefissato e anzi in qualche modo rinforza l'identità nazionale slovena o croata che fosse, il comunismo di Tito ci riesce perfettamente nella sua opera di snazionalizzazione, perché come sappiamo negli anni del lungo esodo dal 1944 Zara fino agli anni 50 inoltrati, la zona B dell'Istria, questa opera di snazionalizzazione si traduce nell'abbandono di quelle terre della stragrande maggioranza della sua componente italiana, che non se ne stava lì, come qualcuno rozzamente dice, immigrata, portata a colonizzare l'Istria, appunto, no? Come certa vecchia storiografia jugoslava predicava, ma che invece, lo sappiamo, erano comunità storicamente radicate in quelle terre sin dai tempi della romanizzazione. Ecco, questo mi premeva chiarirlo a scanso di equivoci, sarebbe veramente scorretto da parte mia. Allora, si diceva di cambiamenti di confini. 1941, aprile 1941, siamo ormai nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, la campagna militare e l'aggressione alla Jugoslavia comporta una serie di ingrandimenti territoriali, comporta anche, lo sappiamo, in realtà il passaggio dalla cosiddetta guerra parallela alla guerra subalterna, con un'Italia fascista al traino di quello che veniva pomposamente chiamato, no, il camerata germanico. E lo si capisce molto bene in questo contesto. La realtà anche diplomatica di queste terre vede la posizione dell'Italia molto debole. Un esempio: la nascita dello Stato indipendente croato, assegnato a Imone di Savoia, che per un Savoia per una volta ci vede bene nelle cose e in Croazia non ci va mai, non si presenta mai. E di fatto il leader di quello Stato, lo sappiamo, è Ante Pavelic, leader di una setta ultranazionalista che predica la purezza etnica della Croazia, ciò che comporterà nella terribile estate del 1941 le persecuzioni nei confronti dei serbi, dei confronti degli ebrei di Croazia e delle popolazioni nomadi della Croazia. Se cito il campo di Jasenovac, cito un campo di concentramento e di eliminazione nel quale le iniziative degli Ustascia si dice abbiano fatto arricciare il naso perfino ai nazisti. Credo che abbiamo detto tutto. Ma al di là di questo, a est del vecchio confine tra l'Italia e il regno dei serbi, croati, sloveni, poi il regno di Jugoslavia, si costruisce una nuova provincia di breve durata, la provincia di Lubiana, si ingrandisce la provincia di Fiume e si cerca di costituire sulle coste della Dalmazia delle nuove province, quelle di Spalato e delle Bocche di Cattaro. In realtà la definizione diplomatica, gli accordi tra l'Italia di Mussolini e Pavelic, i suoi emissari, insomma, sono molto contrastati, perché Pavelic, pure largamente foraggiato e addestrato in Italia, finisce con l'appoggiarsi all'alleato più forte, quindi la Germania, e quindi in qualche modo volta le spalle all'Italia, rivendicando anche il possesso della Dalmazia, e quindi siamo a motivi di contrasto. Ancora c'è un governatorato militare in Montenegro, un ingrandimento dell'Albania, già protettorato italiano, no? Che diventa la Grande Albania con l'annessione del Kosovo, che allora soprattutto, ma lo sappiamo bene anche da vicende storiche più recenti, non era un territorio particolarmente pacifico ed è sempre stato molto problematico. In buona sostanza, l'esercito italiano si trova a operare in un territorio dove si scatena una terribile guerra civile. È un testimone altissimo di queste vicende è Falco Marin, il figlio di Biagio Marin, che morirà appunto in Jugoslavia, essendo giovane ufficiale appunto dell'esercito italiano, e che capisce la vanità di quella guerra. Capisce perfino le ragioni di quei ribelli, cioè loro hanno una ragione per combattere, ma noi, e lo dice uno che è andato volontario a combattere con il proprio paese. Ecco, questa è la provincia di Lubiana, 1941, e all'interno di tutto questa, di questa situazione così problematica e caotica interverrà l'8 settembre. Non occorre che vi dica naturalmente di che cosa si tratta. Qui siamo appunto nelle prime settimane del settembre 43, per Trieste sfila un mesto corteo di prigionieri italiani destinati ai campi di concentramento dell'universo concentrazionario nazista, no? Sono i cosiddetti IMI, no? Gli internati militari italiani, questa invenzione tedesca che permetteva di trattare i soldati italiani non come tali ma come manodopera schiava, purtroppo. E saranno tanti, e giustamente il presidente Carlo Azeglio Ciampi ha voluto onorare e ricordare anche questa parte della resistenza, la resistenza cioè di quanti soldati e ufficiali nei campi tedeschi hanno detto di no alle blandizie, non hanno accettato di andare a combattere con la Repubblica Sociale Italiana, ma sono rimasti fedeli al loro giuramento e tanto hanno sofferto. Ricordo ad esempio le bellissime memorie di prigionia di Mario Rigoni Stern, per fare un nome così molto vicino, credo, in tutti i sensi. All'interno di questa situazione caotica, tante volte non ci si pensa, ma siamo nel biennio 43-45. Quando si verifica questa prima ondata di violenze che va sotto il nome di foibe istriane, l'esercito tedesco ha già occupato i principali centri del litorale. I presidi italiani, anche laddove avrebbero potuto validamente opporsi, non lo fanno, perché gli ordini degli ufficiali superiori non arrivano, non prendono le decisioni che avrebbero potuto prendere, e come al solito lasciano questi uomini abbandonati a se stessi, alle proprie sventure. E intanto, in particolare in questo caso per l'autunno 43, all'interno della penisola istriana, per intenderci in quella di copresenza italiana e croata soprattutto, si verifica appunto questa prima ondata di violenze. È il momento di un vuoto di potere conseguente all'8 settembre. A lungo si è pensato a queste violenze come jacquerie spontanee, rivolte contadine, ma in realtà abbiamo capito che non si trattava tanto di questa, e sono fonti anche fonti memorialistiche jugoslave a dircelo, no? laddove si riferisce che giovani istriani ma di lingua croata erano andati a formarsi come quadri del Partito Comunista a Belgrado e al momento buono, già nel 42, ritornano ai loro paesi d'origine, trattano con gli anziani croati dei villaggi nazionalisti e proprio presentando la loro lotta come una lotta di liberazione nazionale, una sorta di risorgimento croato nell'Istria, riescono a saldare appunto un'alleanza tra le ragioni del comunismo e le ragioni del nazionalismo croato, una miscela esplosiva. Queste violenze quindi hanno una loro preparazione e colpiscono chi? Colpiscono chi in qualche modo rappresentava qualunque tipo di autorità italiana, no? Certo dagli ex responsabili del fascismo, molti se ne erano già andati nel cosiddetto termine assai improprio esodo nero dopo il 25 luglio, ma in realtà sono presi nella rete anche possidenti terrieri, quindi c'è anche una rivendicazione di tipo sociale, semplici guardacaccia, farmacisti, segretari comunali, maestri e poi lo sappiamo purtroppo le violenze su giovani donne, no? Emblematico il caso della povera Norma Cossetto o di sacerdoti come Don Tarticchio, anche egli soggetto a violenze terribili, prima di finire appunto sul fondo di una foiba. Mi preme solo sottolineare questo di questa immagine, la connotazione simbolica che il termine infoibato acquisisce subito. Non soltanto chi effettivamente viene precipitato sul fondo di una cavità, ma anche quanti, e sono tanti di più purtroppo, scompaiono in quelle circostanze. Soprattutto per il 45 e gli anni successivi, la Jugoslavia è un paese ben grande e i luoghi dove far sparire la gente purtroppo erano tanti. Vabbè, passiamo avanti su questo. Ecco, quello che è interessante forse ricordare è un personaggio, lo ricordavamo anche questa mattina, come Arnaldo Arzaric, no? Questo coraggioso vigile del fuoco del distaccamento di Pola, che ha l'incarico di i parenti di questi scomparsi che vengono appunto sommariamente processati e scompaiono in queste cavità naturali ed artificiali dell'Istria. Si hanno notizie di queste scomparse, si trova qualche oggetto, qualche vestito oppure qualche eco terribile e vengono esplorate diverse cavità da questo vigile del fuoco, sempre con delle squadre armate al seguito, riesce a recuperare 217 corpi, altri, lo dice in una relazione tanto drammatica quanto per noi preziosa per apprendere tutta una serie di particolari, altri non riesce a recuperarli o per la situazione in cui i corpi stessi versavano oppure perché inanfratti in siti di quelle cavità che non si poteva con le tecniche speleologiche dell'epoca raggiungere. E soprattutto di questa slide è importante anche ricordare questa ultima riga qui, ovvero il 13 settembre del 43, quindi molto presto, a Pisino, le autorità partigiane dell'Istria proclamano l'annessione dell'Istria alla Croazia, ma non quella di Ante Pavelić, alla Croazia che sarebbe stata incorporata in quella che sarebbe stata rivoluzionata dal processo innestato intanto dal movimento e dal Partito Comunista guidato, sappiamo, da Tito, e che ormai aveva dato inizio a questa guerra di liberazione. Ma sappiamo bene quali caratteristiche aveva questa guerra di liberazione. Io lavoro in un istituto che si occupa di storia del movimento di liberazione, movimento di liberazione italiano, che è un'altra cosa. I padri fondatori del mio istituto facevano parte del Comitato di Liberazione Nazionale Italiano di Trieste e all'arrivo degli jugoslavi hanno dovuto tornare in clandestinità. Su di loro c'era l'ordine di sparare a vista da parte di jugoslava, perché la loro tesi non era certamente, erano vecchi mazziniani, qualcuno era stato a Fiume con D'Annunzio, quindi l'italianità di quelle terre non doveva essere messa in dubbio e chi lo faceva rischiava grosso, ma su questo torniamo tra breve. Ma questi proclami sono importanti perché quando sarà il momento si darà per scontato che così era. Lo stesso farà lo Svobodin Fronta, cioè il fronte di liberazione sloveno, proclama di annessione del litorale sloveno alla nascente Jugoslavia di Tito, e il Consiglio Nazionale Antifascista, che era il massimo organo appunto della lotta di liberazione jugoslava, fa proprie queste proclamazioni di annessione. Si dà per scontato il destino nazionale di queste terre. Intanto, già il 10 settembre del 1943 si costituisce la Operationszone Adriatisches Küstenland, che è la nostra zona d'operazione, no? Questa era la Operationszone Vorland. Qui Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana, queste province vengono accorpate in questo organismo fortemente presidiato dai nazisti, che a differenza del resto dell'Italia occupata non si limitano al controllo militare, ma amministrano la giustizia, governano l'economia, controllano anche la vita politica di questa città. E, come tristemente sappiamo, all'interno della città di Trieste sorge il campo di detenzione di polizia della Risiera di San Sabba, che non è, tante volte lo si dice, ma dirlo qui a Bolzano è un'eresia, no? Quante volte, sono sicuro che i giornalisti presenti in sala non lo fanno, no? Ma purtroppo si sente la Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento in Italia. No, per piacere, non diciamo più queste baggianate. Non era l'unico campo di concentramento. Bolzano, Fossoli, Borgo San Dalmazzo, con ciascuno con proprie caratteristiche, e alcuni dei quali, Fossoli e la Risiera stessa, negli anni successivi saranno riciclati, e sapete che cosa saranno riciclati? Diventano campi profughi. Il villaggio San Marco a Fossoli, anche la Risiera, viene destinato all'accoglienza, tra virgolette, degli esuli dall'Istria. Ecco. Comunque, all'interno del campo di detenzione di polizia della Risiera di San Sabba ci sono parecchie vittime, e queste vittime sono soprattutto resistenti italiani, sloveni, croati, ma anche ostaggi, gente catturata in retate o finita lì magari nel tentativo di liberare qualche familiare. Ci sono delle testimonianze terribili in questo senso. Anche in questo caso quella delle vittime non può essere che una stima, dalle 2 alle 4 5.000, ecco, alcune migliaia in sostanza, che sono comunque evidentemente tante, no? Certo, all'interno della Risiera di San Sabba è attivo purtroppo un forno crematorio. La guerra intanto va avanti, si sviluppa, si arriva all'esito del conflitto e alla resa dei conti, quella che viene chiamata corsa verso Trieste, la corsa per Trieste, e che in realtà, quando vedo questa cartina mi si accappona la pelle, dico, magari non è chiarissima con tutte queste frecce che vanno di qua e di là, no? Ma si vede bene quantomeno queste frecce rosse che arrivano rapidamente da sud, sono la quarta armata dell'Esercito Popolare di Liberazione, quello che era comandato appunto da Tito, e queste frecce azzurre sono invece il nono corpus partigiano sloveno. Gli jugoslavi hanno una gran fretta, a differenza degli alleati, di raggiungere la Venezia Giulia, i suoi centri principali, Trieste, Gorizia, cioè quanto più vicino a quel limite dell'Isonzo, che era il vecchio sogno dello jugoslavismo e del panslavismo. L'occupazione di quelle terre, mettere un piede su quelle terre, significava mettere le mani avanti su quanto sarebbe poi accaduto durante le trattative di pace. Noi sappiamo che Tito e il suo ruolo era stato ampiamente riconosciuto dagli alleati, in particolare Churchill dal 44 in particolare, è un alleato importante e prezioso. A quel punto la situazione diplomatica si fa molto problematica. Vi dicevo della gran fretta di arrivare a Trieste e Gorizia, l'occupazione di queste città, liberazione per alcuni, occupazione per altri, in particolare per la componente italiana, evidentemente, cui io appartengo, viene data più importante dell'arrivo a Lubiana. Leggete in questa carta, Lubiana 11 maggio, Trieste Gorizia 1 maggio 1945. Questa è un'immagine del 30 aprile 1945. Già Slataper nei primi anni del Novecento aveva scritto una frase famosa: a Trieste tutto è doppio. È proprio vero, a Trieste tutto è doppio. Siamo l'unico caso in Italia in cui c'è una duplice insurrezione. Il 30 aprile, non il 25, dalle nostre parti, insorgono sia gli uomini del Corpo Volontario della Libertà, quindi uomini legati al Comitato di Liberazione Nazionale Italiano, dal quale però nel frattempo, già da un anno, da autunno 1944, sono usciti i rappresentanti del Partito Comunista, ma insorgono anche gli uomini di un'altra organizzazione, la cosiddetta Unità Operaia, che raccoglieva appunto quadri del Partito Comunista, comunque esponenti del movimento operaio della città, i quali evidentemente fanno uno più uno. Che cosa dicono? Arriva Tito, quindi arriva il comunismo, quindi il nostro sogno di raggiungere questo paradiso appunto socialista si realizza con l'arrivo di Tito. Qualche anno fa un vecchio membro partigiano di Pirano mi ha detto: eh sì, erano le scottature del Sol dell'Avvenire, e ce ne sarebbero state tante anche per i comunisti della Venezia Giulia, i comunisti piranesi, o quanti poi nel 48 subirono le persecuzioni del titoismo in quanto rimasti fedeli alla linea, no? Dopo l'uscita della Jugoslavia dal Cominfor. Insomma, questa duplice insurrezione è subito, nei primi giorni, appunto quello che si diceva all'inizio, questa operazione di epurazione preventiva del territorio. Di che cosa si tratta? Si tratta di sgomberare il terreno da tutti quelli che potevano rappresentare un pericolo per la tesi dell'annessione della Venezia Giulia, di Trieste, di Gorizia. L'Istria è una storia a parte, no? Purtroppo possiamo dire che già con l'arrivo delle truppe jugoslave le sorti di quel territorio erano quasi già praticamente decise, erano già perdute, no? Se ne accorgono subito i cittadini di Fiume, che saranno i primi a esulare nel silenzio, quelli di Pola già ben prima della firma del trattato di pace, quando si spargono le prime notizie di quello che a Parigi si sarebbe deciso, nell'inverno, no, del 46 si dipana l'esodo da Pola. Il vescovo di Pola dirà: si vede che i signori politici non sanno che fa freddo e per le persone povere il freddo è qualcosa di duro, e si sviluppa appunto l'esodo da Pola, no? Ecco, operazione preventiva, cioè sgomberare il terreno da chiunque rappresentasse un freno, un ostacolo alla tesi dell'annessione da parte jugoslava di quelle terre. Ci saranno una nuova ondata di infoibamenti, le cosiddette foibe giuliane della primavera 1945, nel Triestino, nel Goriziano, ma anche a Pola, che conosce anch'essa i suoi 40 giorni, no? Poi il suo destino rimarrà sospeso tra gli accordi di Belgrado del giugno 1945 al, diciamo, il 10 febbraio come data, come termine ad quem, ma già da molto prima, 1947, no? È un'enclave angloamericana all'interno di un territorio ormai di fatto assegnato a quella prima zona B jugoslava, che poi transiterà appunto alla Repubblica Federativa di Jugoslavia. E lo sappiamo da fonti jugoslave, è proprio nei primi giorni del maggio 45 che in queste zone avvengono gli infoibamenti veri e propri. Questa immagine emblematica, siamo nella bellissima piazza Unità d'Italia, ma Trieste ha tante bellezze, è vero, però nel suo seno racchiude anche tanti orrori, no? Abbiamo visto la risiera, e oggi anche nella bella piazza Unità d'Italia, in questa immagine, vediamo arresti di persone che, quale sarà stato il loro destino, non si sa. Vengono compiute migliaia e migliaia di arresti, gli angloamericani se ne accorgono, li registrano, ed è vero che una buona parte degli arrestati rientra, ma un'altra parte piuttosto consistente degli arrestati non rientra affatto. Alcuni appunto finiscono nelle foibe del Carso, Triestino e Goriziano, altri spariscono appunto nella Jugoslavia, in una deportazione che non lascerà traccia. È un analogo, ma voi lo sapete bene, al fenomeno dei desaparecidos in qualche modo, no? E questa mattina riflettevo con i ragazzi anche su queste due forme diverse, no, di trattare, mi rifaccio al titolo di un bellissimo libro di Giovanni De Luna, Il corpo del nemico ucciso, no? E nazifascismo, esibizione dei corpi delle vittime, terribile, no? Nella mia città, nella centralissima via Ghega, alle finestre del Conservatorio Tartini, che allora era diventato casa del soldato. Mia mamma passava di molti triestini in primavera. Trieste, quando viene fuori il sole, diventano tutti matti, si va tutti al mare. Questa strada conduce verso, c'è la linea ferroviaria che porta verso il mare. 24 aprile 1944, le impiccagioni di Via Tartini, ma è un esempio tra i tantissimi purtroppo possibili, ma insomma l'esibizione del corpo degli ostaggi, dei partigiani, di quanti vengono catturati ed eliminati, per incutere terrore nella popolazione. In questo caso siamo a un principio opposto: la scomparsa e l'idea terribile di essere precipitati nel vuoto, una paura ancestrale nell'uomo. E tra l'altro un trattamento che risale a un'antichità molto remota. Pensate alla rupe tarpea, no? Erano i bambini malformi che venivano gettati come delle immondizie, e in effetti le foibe tradizionalmente erano utilizzate come discariche di attrezzi agricoli, carcasse d'animali e così via dicendo. Quindi c'è una simbologia in questo tipo di eliminazione, che è il vuoto, il nulla, la paura del buio, della caduta, il mondo rovesciato, la scomparsa, oltre che la violenza naturalmente del gesto in sé. E qui appunto alcune considerazioni sulle vittime di queste scomparse. Certo, militari germanici e italiani. Ai militari viene spesso riservata la sorte di essere inoltrati soprattutto in un campo di concentramento passato tristemente alla storia, che è il campo di Borovnica, vicino a Lubiana. Tra i reparti in divisa che vengono catturati ci sono anche membri della Guardia di Finanza e della Guardia Civica, che erano largamente infiltrati dal CLN e che avevano partecipato all'insurrezione di Trieste. Ci sono certo amministratori, ex fascisti, eccetera, ma in quei giorni c'è chi fa il salto della quaglia, per cui da solerti funzionari fascisti si diventa solerti funzionari dei poteri popolari jugoslavi. C'è sempre chi riesce a mimetizzarsi, no? A fare il camaleonte. Ci sono membri del Comitato di Liberazione Nazionale, a Gorizia ad esempio Olivi, Sverzutti, cioè autorevoli rappresentanti dei partiti democratici, che scompaiono, civili inermi, anche qui casi di violenze, di vendette personali, denunce anonime, che a Trieste purtroppo, altro orrore nel ventre di questa bella città, avevano caratterizzato la nostra storia. Denunce nel periodo 14-18, denunce prima ancora che fossero proclamate le leggi razziali, denunce della presenza di ebrei nell'occupazione nazista e denuncia di presenza di, tra virgolette, fascisti durante l'occupazione jugoslava. Questa mattina ho fatto ricorso a un aneddoto, allora non vi racconto lo stesso, ve ne racconto un altro, perché mi pare interessante. Ricordo molto bene che nella mia casa, abito in Rione, che all'epoca era ancora a larga maggioranza slovena, era un sobborgo della città, il Rione di San Giovanni, celebre per l'ospedale psichiatrico in cui ha lavorato Franco Basaglia, la casetta accanto alla mia era abitata da una famiglia slovena, e questi ogni primo maggio, il fazzoletto rosso e le bandiere rosse, eccetera, eccetera. Mio nonno era di ispirazione mazziniana, mio papà sulla soglia del nonno, e quindi io evidentemente mi sentivo molto legato a questa tradizione. E un vicino di casa mi ha raccontato questo aneddoto sugli abitanti di quella casetta lì. Allora mi fa, ma a tantissimi anni di distanza, pochi anni fa, il giorno del ricordo è servito anche questo a far riemergere tante memorie tenute dentro di sé per anni e tanti anni. Mi dice: sai, ti ricordi il signor X che abitava vicino a te? Sì, ma sai cosa è successo? Mio papà era una camicia nera, mi dice, ed era stato in Jugoslavia, aveva partecipato all'occupazione della Jugoslavia. A un certo punto rientra a Trieste, durante i 40 giorni, il signore che abitava vicino a casa mia lo dice: vieni qua, ci penso io a te, nasconditi. E lo nasconde per tutti i 40 giorni. Che in questo momento di orrori, di denunce, di scomparse e di vendette, di violenze, tutto sommato una bella storia, no? Perché ci insegna come l'amicizia e i buoni rapporti tra vicini, tra persone che condividono tante cose, qualche volta fortunatamente riesce a prevalere sulla forza devastante dell'ideologia. Già, perché tante volte si sente dire, anche nella giornata della memoria ad esempio, ma come hanno fatto i tedeschi a fare quello che hanno fatto? Ma come hanno fatto? Ma non è una domanda accettabile. Hanno fatto perché sono imbevuti di un'ideologia che è devastante e che porta a queste conseguenze. Perché tutti i sistemi totalitari hanno questo di proprio, che portano le persone a dimenticare di essere tali, ne fanno meccanismi di un sistema e quanto più si è efficienti, tanto più ci si sente integrati in quel sistema. Nel frattempo si dimentica di essere uomini. C'è un film che è uscito qualche anno fa e che per noi insegnanti è molto importante, si chiama L'Onda, non so se l'avete visto, è la storia di un insegnante che un giorno ha la malaugurata idea di fare un gioco di simulazione, diciamo facciamo il gioco del totalitarismo, in classe ci inventiamo un sistema totalitario, ci inventiamo un segno di riconoscimento, ci dividiamo tra vittime e carnefici. L'identificazione che i ragazzi in quel gioco di ruolo hanno è talmente profonda che alla fine dell'esperimento ci scappa una vittima. Il carnefice diventa, è così investito dal proprio ruolo che un ragazzo subisce le conseguenze di queste violenze. È una simulazione. Figuriamoci nella realtà, nella storia effettiva delle cose, all'interno di un sistema o di sistemi totalitari nei quali l'umanità, il singolo, non contano effettivamente nulla, anche se magari il fatto di essere un quadro del Partito Comunista o un membro, che so, importante del Partito Nazionale Fascista o un gerarca nazista dà l'illusione di essere chissà che importante personaggio. Ecco, scusate la parentesi così biografica, insomma. Alcune località dove sono stati recuperati delle vittime di infoibamenti, qui siamo sul caso triestino, nell'immagine si vede quell'attrezzo, no? Quel paranco che adesso è diventato un po' il simbolo di queste vicende e che caratterizza il monumento nazionale della foiba di Basovizza. Vi dicevo prima della quantità di persone riesumate dalle foibe, parliamo soltanto di quelle di Trieste e di Gorizia, a cui badate bene, e anche il numero degli scomparsi si riferisce a quelle due province. Per esempio gli studi di Amleto Ballarini su Fiume parla di 500-600 scomparsi, di Pola altrettanto, e poi soprattutto intanto ne sappiamo molto di meno di quanto accade nella, diciamo, futura zona B, no? Nell'Istria e così via dicendo, ma sappiamo che le violenze lì si protraggono. Questa mattina ricordavo ad esempio la figura di Don Francesco Bonifacio, che scompare nell'ottobre del 1946, quindi una data che in sé non significherebbe granché per la grande storia, no? Diciamo così. Questo è il vecchio assetto monumentale della foiba di Basovizza, la lastra della copertura originaria, che forse mi piaceva di più di quella odierna, non so se, no, non c'è la foto, l'ho eliminata per questione di tempo, insomma. E poi che cosa succede? E poi succede qualche cosa che qualche volta un po' ci si dimentica e che costituisce la vera svolta della storia di quelle terre, perché tanto drammatiche e paurose sono le violenze legate alle foibe e alle deportazioni, quanto determinanti per l'italianità alto-adriatica sono le vicende successive, quelle che portano a un esodo che è un fenomeno di lunga durata, che per gli italiani di Zara era già iniziato nel 1944 e della Dalmazia già nel 1944, e che si protrarrà appunto ben oltre la firma del memorandum di Londra nel 1954. Le definizioni di nuovi limiti confinari. E su questo faccio una riflessione che ho condiviso con alcuni colleghi qualche giorno fa a Reggio Emilia, colleghi che avevo incontrato a Trieste, che in 3 giorni sono venuti a fare un percorso di formazione. Io li ho accompagnati in questo percorso di formazione e mi dicevo: mamma mia, poveri colleghi, in 3 giorni la storia della Venezia Giulia, noi tra l'altro in 1 ora, ma credo che il pubblico sia già ben preparato su queste vicende. Ecco, lì no, erano insegnanti in formazione che per lo più poco sapevano delle vicende di queste terre. E dicevo, in 3 giorni quante robe cambiano per loro, no? Avevamo iniziato con un bel percorso nella Trieste e Asburgica, abbiamo finito con il campo raccolta profughi di Padriciano, col centro raccolta profughi di Padriciano. E poi mi sono detto, però vedete, voi in 3 giorni avete vissuto, ricostruita naturalmente, una vicenda che le popolazioni di queste terre hanno vissuto in qualcosa di più di 30 anni. Ci avete capito alcune cose, altre no. Ed effettivamente pensate a che cosa significava, forse molti di voi l'hanno saputo, vivere in una zona in cui tutto cambia continuamente. E questi cambiamenti spesso sono portatori di non elementi particolarmente positivi, no? Ma di ulteriori difficoltà, complicazioni, mali, qualche volta violenze, contrasti, lacerazioni. Alcuni psicologi hanno collegato anche la forte presenza del disagio mentale proprio a questi continui cambiamenti di confine. E c'è chi ha studiato anche casi di persone venute appunto dall'Istria che hanno subito stati di disagio mentale. Ma sfido, vivere in questa continua instabilità e con queste continue minacce sulla testa, no, non doveva essere facile. Questa dunque è la prima zona A e zona B, realizzata dopo gli accordi di Belgrado del 9 giugno 1945, significativa, no? Questa enclave anglo-americana di Pola, ma qui siamo già tra il 46 e il 47, in verità, un'immagine dell'esodo da Pola. Sappiamo, no, le vicende, la strage di Vergarolla il 18 agosto del 1946, che è l'elemento scatenante, la scelta dell'esodo, il comitato per l'esodo da Pola che si costituisce appunto nell'estate di quell'anno e che raccoglie immediatamente la massiccia adesione dei cittadini di Pola, che viene pressoché abbandonata. Gli ultimi giorni, la testimonianza ad esempio di Guido Miglia o di Corrado Belci, che sono rimasti a lungo in città in quanto responsabili appunto di quel comitato e così via dicendo, parlano di questa città in cui risuonano questi colpi di martello, no? I chiodi che chiudono le casse, le imposte di casa, eccetera eccetera, l'unico suono che si sentiva in quei giorni. E voglio spezzare una lancia per Simone Cristicchi e il suo magazzino 18, che secondo me molto coraggiosamente, certo con le semplificazioni del caso, ma insomma è uno spettacolo teatrale, non è un trattato di storia, ha cercato di portare al grande pubblico queste vicende, per non dire che a mio modo di vedere, se posso approfittare di questo palcoscenico, dire che la canzone Magazzino 18 è una canzone bellissima, che coglie molto di quella realtà, che ha un precedente che mi ha fatto molto interrogare in questi giorni, perché nel 1969 un cantautore di queste terre, Sergio Endrigo, di Pola, che si è portato dentro per anni questa sua storia, come tante altre persone, scriveva una canzone che si chiamava 1947 e che cominciava: da quella volta non t'ho rivista più. Ma perché? Il pubblico italiano nel 1969 di quei versi e di quella canzone e di quell'anno, che cosa ci avrà capito? Non molto. Avrà pensato, sì, 2 persone che si lasciano tanti anni fa, e la nostalgia, ma c'era dell'altro. Era la storia dell'abbandono di Pola da parte di Sergio Endrigo, della sua famiglia e di tanti e tanti esuli. Piccola parentesi e piccolo tributo a un artista qualche volta misconosciuto. Poi appunto, e mi avvio alla fine, la firma del Trattato di Pace di Parigi il 10 febbraio del 47, vedete l'assegnazione alla Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia di gran parte di quei territori, a quel punto anche della città di Pola, l'esodo che si dipana da quei territori con tutte le difficoltà dell'accoglienza degli esuli dall'Istria, la realizzazione di 120 campi profughi su tutto il territorio nazionale. E qui è interessante fare un po' di storia comparata, perché le cose che accadono in Italia in quegli anni stanno accadendo nell'Europa occidentale, dove c'è un movimento di popolazione di milioni e milioni di persone, ma parliamo evidentemente di territori molto vasti. Si registra il fenomeno che viene chiamato dei displaced person, persone fuori luogo, di cui in un bellissimo libro Silvia Salvatici ci ha parlato, un libro dal titolo emblematico Senza casa e senza paese, e racconta appunto dei campi che vengono realizzati, che so, in Germania, nell'Europa centro-settentrionale, per accogliere tutti quei cittadini che so, a parte i tedeschi provenienti dai territori poi prima occupati dal Reich e poi, voglio dire, occupati dall'Unione Sovietica, ma anche polacchi, ungheresi, quanti non volevano starci, insomma, in quella nuova realtà e del loro destino. Un libro veramente magnifico che in realtà ci è tanto vicino e che ci dice, ad esempio, come anche lì caserme, campi di concentramento, fabbriche dismesse, come accade qui da noi, vengono riciclati a centri, appunto, raccolta profughi, a centri di accoglienza, con le enormi difficoltà del caso che sappiamo, con i pregiudizi che gravano sulla figura di chi viene da lontano, non si sa qualche volta da dove, non ha niente, quindi una figura che spesso, ahi noi, viene vista non proprio con occhi benevoli. Ed è una storia che secondo me tanto ci insegna anche sul nostro presente, quando analoghi fenomeni si verificano ancora giorno dopo giorno, e forse dovrebbe insegnarci qualche cosa sul significato dell'accoglienza, della necessità appunto di aprirsi, di sostenere, di aiutare, proprio perché anche tanti nostri connazionali non hanno avuto spesso questo aiuto, questo sostegno e questa accoglienza. E sono cose che devono farci riflettere e che ci toccano profondamente, credo, come comunità. L'istituzione di un territorio libero di Trieste, dicevo, uno staterello sotto l'egida dell'ONU, che non avrà mai un governatore. La situazione viene lasciata in stallo finché, dal punto di vista diplomatico, delle relazioni internazionali, con il nuovo ruolo assunto dalla Jugoslavia di Tito, non più alleato di Stalin, ma utile bastione di difesa contro un'eventuale occupazione dall'est. Sono gli anni della guerra fredda, li abbiamo vissuti e sappiamo che cosa significano. E finalmente il memorandum di Londra, che pone fine a tutto questo, ma non pone fine all'esodo, perché con il memorandum di Londra del 54 anche gli italiani della zona B, che già nel frattempo avevano progressivamente iniziato ad abbandonare quel territorio, massicciamente lo abbandonano. Perché resistono più a lungo? Non perché il comportamento delle autorità jugoslave fosse stato particolarmente più benevolo, anzi in alcuni casi fu molto pesante, molto duro. Ecco, un'altra riflessione: ho riletto in questi giorni Materada, bellissimo romanzo di Fulvio Tomizza, ma rileggerlo con le conoscenze storiche dei passaggi dell'esodo, le politiche seguite dalle autorità jugoslave, il diritto d'opzione, l'ammasso dei beni e dei prodotti agricoli, eccetera, è una cosa. Leggerlo nel 60, quando ormai, lo sapete bene, le luci su questa vicenda si erano spente, quel 54, vola colomba bianca, vola, non interessa più a nessuno. Trieste è stata riassegnata all'Italia dell'Istria, se ne perdono un po' le tracce, no? Nella consapevolezza nazionale. Però Tomizza ci scrive quelle cose molto belle. Chissà il pubblico italiano che cosa effettivamente di quel romanzo è riuscito a coglierlo. Vabbè, al di là della sua, del suo valore intrinseco letterario, ma non è solo questo. E quindi il cosiddetto grande esodo, appunto l'abbandono anche della zona B, che si protrarrà per i lunghi anni 50. E in conclusione, sono delle parole tratte dalla preghiera dell'infoibato, scritta dal vescovo di Trieste, Monsignor Santin, che in quelle tempeste, sia durante l'occupazione nazista prima ancora durante il fascismo, denunciando le violenze dell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza, sia durante i 40 giorni, è l'unica autorità rimasta in città alla quale la cittadinanza può rivolgersi. E scrive delle parole che secondo me sono emblematiche e che leggo sempre ai ragazzi o che vengono a trovarmi a Trieste o che mi invitano nelle scuole, perché sono veramente emblematiche di quella storia, laddove dice: in 30 anni due guerre come due bufere di fuoco, e sono le due guerre mondiali evidentemente, sapete che il Carso è stato l'epicentro della grande guerra italo-austriaca, sono passate attraverso queste colline carsiche, hanno seminato la morte tra queste rocce e questi cespugli, hanno riempito cimiteri e ospedali, hanno anche scatenato qualche volta l'incontrollata violenza seminatrice di delitti e di odio. Ecco, nelle mie terre la violenza seminatrice di delitti e di odio si è presentata molto spesso e col volto più brutto nel primo cinquantennio del secolo scorso. Si era presentato già prima la violenza come strumento di lotta politica all'interno delle città, perché un altro mito che va sfatato è quello della pacifica convivenza. Con l'insorgere dei movimenti nazionali, i rapporti tra le diverse componenti nazionali, nei centri urbani soprattutto, erano stati a volte contrassegnati da scontri tra nazionalisti italiani, nazionalisti sloveni e così via, i redentisti italiani e i redentisti o jugoslavisti e così via dicendo, no? Quindi anche questo è un mito che va un pochino sfatato, anche se naturalmente non si può leggere solo attraverso il filtro di violenza, della violenza, questa storia evidentemente. Certo è che è stato un segno purtroppo molto presente e che ha profondamente connotato queste terre. Ne stiamo uscendo, io credo che anche l'istituzione del giorno del ricordo abbia fatto molto bene, abbia permesso la liberazione di una memoria che certamente nelle mie terre era già molto presente nella storia delle famiglie, delle persone che in quelle terre vivevano e che sono state a diretto contatto con questa realtà, ma lo sappiamo molto meno al di là dell'Isonzo, no? Quindi credo sia stata un'operazione importante. È importante anche e soprattutto se non si limita a momenti così di ricorrenza e di celebrazioni, ma può diventare terreno appunto di studio, perché quello giuliano è anche un vero e proprio laboratorio di storia dal quale si possono imparare moltissime cose e soprattutto, cosa alla quale tengo, perché come insegnante spero di seminare anche qualche cosa che vada al di là delle delimitate competenze disciplinari, parlo invece di formazione, di educazione alla cittadinanza, sono storie che ci insegnano molto proprio sul piano delle relazioni tra i gruppi umani, di quanto questi possono essere problematici, ma di quanto questi invece possono portare non alla distruzione ma alla costruzione di comunità allargate in cui ci sia un rispetto reciproco per le travagliate memorie di ciascuno, che tutte hanno pari dignità. La riconciliazione è un altro discorso, ma insomma per la costruzione di una casa più grande che questa nostra povera Europa, che ricordavo anche questa mattina, che non sia soltanto l'Europa dell'euro ma che sia invece l'Europa delle persone e soprattutto, lasciatemi spezzare una lancia, l'Europa dei giovani, che sono tanto più liberi di noi da, spero almeno da pregiudizi, e forse saranno più bravi delle nostre generazioni di costruire un futuro di armonia e di pace. Grazie. Il calore dell'applauso mi sembra che dica molto, sono le 19:15 passate, ma insomma vale la pena forse approfittare, no, per di Fabio Todero, della sua relazione, per provare così a avviare un piccolo dialogo, no? Un piccolo dibattito, prego. Vado a memoria, mi viene in mente Osimo. Ha cambiato qualcosa il trattato di Osimo, che mi pare sia stato abbastanza contestato? Il trattato di Osimo, proprio in questo In questi giorni la rivista del mio istituto si chiama Quale Storia, ve la segnalo, non so se la ricevete in biblioteca, se no... Ci abboniamo. Ah, bene. Ecco, esce un numero monografico appunto sul Trattato di Osimo, perché ormai siamo a, ahimè, 40 anni dalla firma di quegli accordi. Ha praticamente sancito una volta per tutte la suddivisione. Magnifico. Quindi arriverà tra... stiamo mandando il numero 2 del 2013, siamo un pochino in ritardo. Una situazione già largamente definita, ma certamente suscita un putiferio non soltanto o non tanto a livello nazionale. Leggevo in alcuni di questi saggi molto interessanti, ma io ricordo molto bene quel periodo perché ormai ero verso l'università, insomma, mi occupavo, mi interessavo molto di queste vicende. Ecco, per esempio, quando si discute di queste, del Trattato di Osimo in Parlamento, le sedute non sono più come quelle quando era aperta la questione di Trieste, vanno più o meno deserte, no? Mentre invece a Trieste sollevano un putiferio, e un altro dei primati, ahimè, della nostra città è quello della nascita di movimenti politici, antipolitici in qualche modo, a sfondo vagamente autonomista, e mi riferisco al fenomeno della Lista per Trieste, che anticipò fenomeni che poi si sono, con altri connotati all'origine, ma poi purtroppo scivolati su altri piani, fenomeni che si sono chiamati Lega, che si chiamano Movimento 5 Stelle, eccetera, tutto ciò che è, diciamo, contestazione del sistema, e che a Trieste sono un po' un laboratorio che si raccoglie intorno alla protesta contro la firma del Trattato di Osimo, contro la decisione di realizzare una zona franca industriale sul Carso, che non viene mai realizzata, e tutta una serie di altri provvedimenti anche di carattere economico che non vengono realizzati, e così via dicendo. Porto il microfono, ci vuole il microfono? No, abbiamo solo un microfono, ma c'era già. Senta, lei ha fatto un escurso dal 1800 dal Impero Asburgico. Io vorrei sapere se durante la guerra italiana, cioè del Regio Esercito italiano dal 41 fino a settembre del 43, come si è comportato il Regio Esercito italiano nei confronti della popolazione slovena e croata. Cioè, non può essere stata poi i 40 giorni di Gorizia e Trieste una reazione alle violenze che ha subito la popolazione croata e slovena? Allora, bella domanda che ha fatto bene a fare, naturalmente, no? Perché tra le varie questioni sul tappeto c'è, ad esempio, il problema appunto dell'occupazione italiana della Jugoslavia, che vede da una parte sul terreno, sul piano militare, l'utilizio da parte del Regio Esercito, le stesse cose purtroppo accadono anche in Grecia, no? Di sistemi di repressione molto, molto radicali, quindi si parla di incendi di villaggi, di fucilazioni sommarie, c'è quella famosa disposizione del generale Roatta, no? Che dice non dente per dente ma testa per dente, quindi una durezza che, come ha brillantemente osservato uno storico di vaglia come Enzo Collotti, da parte dell'esercito italiano, per quelle che erano le sue caratteristiche, non è un indice di forza, come nel caso dell'esercito tedesco, ma un indice di debolezza. Significa non saper dove mettere le mani. In quel contesto si verifica la deportazione di civili jugoslavi, sloveni e croati, con le istituzioni, certo, di campi di concentramento, in alcuni dei quali le condizioni di vita sono terribili. Rab, appunto, un'isola in cui il campo era fatto più che altro di tende, e con la bora, il vento, il freddo semina la morte, soprattutto tra i tanti bambini che vi sono ospitati, poi vengono spostati a Gonarse, poi inoltrati in campi di concentramento disposti più o meno in tutto il territorio nazionale. Questo è sicuramente vero. Ora, non è dubbio che il ricordo di tutto questo e anche dei soprusi del fascismo sulle minoranze nazionali non sia un buon precedente, nei confronti degli italiani. Diciamo che ciò che gioca soprattutto, purtroppo, è la forte identificazione che il fascismo aveva voluto tra italianità e fascismo, per cui alla fine tutto ciò che è italiano è fascista in qualche modo, e quindi fare uno più uno diventa molto facile. Però è anche vero che le violenze jugoslave hanno una loro finalità intrinseca, che è appunto quella dell'epurazione preventiva, del togliere di mezzo chiunque o si contrapponesse all'annessione, oppure pensiamo alla politica cosiddetta della fratellanza, del bratstvo, che viene seguita nell'Istria occupata. Che cosa si fa? È una politica di selezione all'interno della componente italiana della popolazione di quelle parti della popolazione che potenzialmente costituivano un alleato, esempio la classe operaia. Il fatto è che gli operai di Pola, quando vedono che negli ultimi giorni, prima della firma degli accordi di Belgrado, gli jugoslavi portano via i macchinari delle industrie, dicono: ma cosa fanno? Ci portano via i mezzi di produzione. Allora si capisce che anche chi aveva creduto, ecco, tra l'altro la tragedia di quanti erano appartenuti al movimento operaio e avevano maturato sentimenti internazionalisti proprio da tradizione operaia, e che invece si trovano davanti a una strana forma di socialismo reale e di un comunismo che ha molti connotati nazionalistici, che è appunto la leva che permette a Tito di ottenere il consenso di vaste fasce della popolazione e di vaste realtà, di anche alcune realtà particolari della popolazione, ad esempio la strana alleanza con molti sacerdoti. Perché? È perché il compimento dei vecchi disegni nazionali jugoslavisti, la convinzione che predicava alcune teorie etnografiche jugoslave che quello era territorio etnico sloveno, ad esempio, no? Con l'interpretazione da parte jugoslava della maggiore importanza della campagna sul centro abitato e della dipendenza del centro abitato della campagna, mentre lo sappiamo nella nostra tradizione storiografica e storica è la città che si fa centro vitale per il contado, lo scontro città-campagna in sostanza, no? Che viene a dipanarsi in quei territori. E quindi quelle violenze, non c'è dubbio che quello che avrà avuto il fratello, il cugino, la mamma, la sorella internata dirà: adesso è venuta la mia ora, no? Però questo sta all'interno di un disegno politico più ampio e più preciso. La selezione nei territori già ormai ampiamente occupati, che però sarà fallimentare, la politica della fratellanza, l'unione antifascista italo-slava, in realtà non fallisce, no? E poi sarà ancora più complicata dopo il 1948, con ad esempio i comunisti italiani che rimangono fedeli all'Unione Sovietica e finiscono per essere internati dai titoisti nell'isola Calva, a Goliotok e così via dicendo. Ed è il dramma di quei famosi 2000 operai monfalconesi che vanno a costruire il socialismo in Jugoslavia, fanno un termine anche questo improprio, controesodo, no? Ma questi personaggi che vanno in Jugoslavia, queste persone che vanno in Jugoslavia a costruire il socialismo, davanti al 1948 dicono: adesso cosa facciamo? Si trovano perseguitati dai jugoslavi, quando ritornano in Italia sono ovviamente spiazzati, più o meno indesiderati, e tra l'altro Pasolini ne parlò in quel bellissimo romanzo che è Il sogno di una cosa, no? Di questi giovani che vogliono andare in Jugoslavia a costruire il socialismo. Ecco, sono tanti frammenti. Oppure i comunisti di Pirano, i comunisti piranesi, che si rivolgono nel 45 a Togliatti dicendogli: compagno Togliatti, qui questi vogliono fare della Jugoslavia a Pirano, ma noi siamo italiani, costruiamo un comitato clandestino, un partito comunista clandestino. Non hanno risposto evidentemente dai vertici del Partito Comunista Italiano, ma è un altro dei drammi di quella tradizione internazionalista che viceversa si trova calata in una realtà in cui il nazionalismo ha una parte molto importante. favore, potrebbe dirci quanti italiani sono rimasti in quelle zone? Io ho fatto una volta una gita da quelle parti, ho visto che a Porta in strada sono bilingue, ho trovato anche qualche italiano. Sembra che siano riusciti ad avere anche un deputato. Sì, sì, sì, ce n'è più d'uno, ce n'è più d'uno. Sì, sì. Beh, intanto le rispondo con un aneddoto secondo me molto simpatico. Un paio d'anni fa mi è capitato di partecipare a un incontro di insegnanti di storia di un'organizzazione che si chiama Euroclio, che raccoglie insegnanti di storia di tutta Europa, che si è svolta a Pola. Allora partecipo a questo convegno, ci sono andato in macchina perché da Trieste a Pola si raggiunge molto facilmente, specie adesso è praticamente tutta autostrada, e quando viene il momento di ritornare a casa lascio l'albergo, mi avventuro per le strade e Pola ha una morfologia molto complicata, no? È distribuita su colli, strade, incroci, insomma mi sono perso. E quindi arrivo a un incrocio, fermo una persona e con quelle due, tre parole di croato che in quel momento mi servivano e che sono più o meno le uniche che conosco, autocesta, cioè autostrada, in poche parole, dove, qualcosa del genere, cerco di capire dove devo andare con la macchina. Questa persona mi risponde in croato e io faccio cenno di capire, ma probabilmente capisce che non avevo capito granché. Quindi mi si avvicina, va a vedere la targa della macchina e legge TS e mi fa: ma cosa, ti son de Trieste? E mi ha spiegato tranquillamente in dialetto. Sì, ci sono, il fenomeno dei rimasti c'è, ci sono alcuni segnali positivi della presenza italiana, ad esempio a Zara è nato un asilo è rinato un asilo infantile, ci sono le comunità degli italiani sia in Croazia che in quella piccola parte di Istria slovena, quindi Pirano, Isola, Capodistria naturalmente, no? Il distretto di Capodistria, comunità vivaci che hanno attraversato i loro problemi in realtà e che per anni hanno dovuto stare zitti e che adesso cominciano un po' a dire le cose che hanno vissuto e a recuperare anche loro una memoria dolorosa. Non so se qualcuno di voi ha letto Bora di Anna Maria Mori e Nelida Milani. È proprio questo bel confronto tra le memorie di un esule, Anna Maria Mori, e di una rimasta, Nelida Milani, che in realtà rimane con la nonna, la mamma non torna a prenderla, poverina, no? Ed è questa storia terribile di questa donna che poi è diventata un'insegnante, una linguista. Sì, la minoranza italiana esiste, esigua ma molto vivace, e ad esempio spesso le scuole italiane sono frequentate da, che so, per esempio da ragazzi croati, perché ci sono meno studenti e quindi l'insegnamento che viene impartito è più ricco e anche dal punto di vista linguistico naturalmente è un grosso vantaggio. Ecco, quantificare in questo momento mi mette in difficoltà. Sicuramente le cifre ce le ho in testa, ma dalle 5 di stamattina non ho chiuso più occhio, quindi mi dispiace. Comunque sì, è una realtà vivace, ogni tanto ci siamo andati anche noi come istituto a presentare libri, a Rovigno ad esempio. Cioè, e vi invito a visitare nel sito il Centro Ricerche Storiche di Rovigno, che pubblica da anni quaderni, volumi. Qualche anno fa è uscito un bellissimo manuale dedicato proprio all'Istria, Istria nel tempo si chiama, se non sbaglio, un volumone così, fatto molto bene, curato da Egidio Ivetic, un lavoro serissimo. E quindi ci sono tante tante cose interessanti. Così come nel mondo della diaspora giuliana in Italia c'è altrettanta vivacità, riviste, giornali, attività culturali. Ecco, questa è una ricchezza molto bella, no? Prego. In queste scuole italiane riescono ad avere i testi gratuitamente, quindi tanti croati delle famiglie optano perché hanno proprio una convenienza materiale. Beh, il Ministero degli Affari Esteri si fa carico della vita delle scuole italiane in Slovenia e in Croazia, insomma, grazie al cielo. Questo è mantenere viva una tradizione. È difficile naturalmente, no? Qualche volta in incontri di studio ho conosciuto colleghi italiani di Capodistria è ovvio che l'italiano che si parla è un po' zoppicante, insomma, è evidente, no? Per ovvie ragioni, però c'è questa... Uffici no, ma la popolazione... Sì, sì, no, no, certo, ma questa realtà c'è. E poi in realtà sono bilingui, cosa che purtroppo noi non siamo, e questo è un grosso limite, anche con le opportunità che ci dà l'Unione Europea. L'introduzione della seconda lingua comunitaria nelle scuole, purtroppo ancora a Trieste non si insegna lo sloveno ed è un grosso limite. È sempre meglio conoscere, no? È uno strumento per conoscersi meglio e per saltare i pregiudizi. Bene, bene, direi che ci siamo, no? Dopo questa, con questa serata, con questa relazione, con questo racconto, con questa testimonianza. Io concluderei con una brevissima citazione, forse il più grande storico del Novecento, Marc Bloch, che fu poi fucilato dai nazisti nel 1944 a Lione, e dice: la ricerca storica deve aiutarci a conoscere e a sapere, non a giudicare, non deve fare il giudice lo storico, no? E in più la storia ci aiuta lo storico e aiuta chi ha la fortuna come noi questa sera di ascoltare un ricercatore appassionato e rigoroso come Fabio Todero, ci aiuta a preparare un lungo incontro fra gli uomini. E la vita come la scienza, scrive Marc Bloch, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha tutto da guadagnare dal fatto che questo incontro sia fraterno. Ecco, a me sembra che lo spirito e le cose che ci ha detto e ci ha portato questa sera Fabio Todero vadano in questa bella direzione. Per cui grazie ancora Fabio Todero. Grazie a voi. Grazie a voi. Forse 40.000, se mi ricordo bene. Però da verificare.